State ascoltando Radio Oltrepò. Ed ora, in diretta con voi, il Mangia. Buon divertimento. Eccoci tornati in onda con un'ennesima puntata della nostra trasmissione dal titolo Mangia Show. A condurre in studio il vostro amico Andrea, o se preferite soprannome Mangia. Resteremo insieme per ascoltare della bella musica, musica Creative Commons. La radio che stai ascoltando è Radio Oltrepò, in diretta 24 ore su 24 su www.radiooltrepò.com. Potete selezionare il vostro player multimediale preferito, ci potete ascoltare o con WinApp, VLC Media Player, che vi consiglio vivamente. Mi sono dimenticato di Windows Media Player, ma funziona anche con il vecchio Windows Media Player. Resteremo insieme per ascoltare principalmente la musica e per leggervi magari qualche notizia. Vi ricordo che potete interagire con il sottoscritto e con la radio tramite l'indirizzo web della radio, che lo ricordo ancora una volta, è il seguente: www.radiooltrepò.com. Se invece preferite la mail un po' più riservata, radiooltrepò@live.it. Poi abbiamo anche un account su Facebook dove potete aggiungerci come amici della radio, sempre anche un fans club in quel posto su Facebook. Se invece volete leggere le notizie concernenti i nostri programmi e la radio, vi ricordo il nostro account su Twitter, basta cercare su Twitter Radio Oltrepò. Se invece volete insomma conoscermi un po' più da vicino, vi ricordo il mio sito internet www.andreamangiarotti.com. Il vostro disc jockey del cuore, il vostro amico che è qua per farvi ascoltare principalmente musica, ma anche per dialogare con voi se vi va, con tutti i mezzi che precedentemente vi ho citato e che citerò più avanti nel corso della nostra trasmissione. Come è andato il fine settimana? Tutto bene? Vi siete divertiti? Mi auguro di sì. In vista un altro weekend, come spesso dico, strepitoso. Ma la musica non manca mai, direi di mettere la prima canzone che apre ufficialmente il programma di Radio Oltrepò, sempre ovviamente musica elettronica, il primo brano dell'artista piacentino Graziano Manca al secolo Dark Light, un caro amico che si diletta a produrre e arrangiare canzoni per la maggior parte dance, e noi lo suoniamo con immenso piacere. La prima canzone è di Dark Light, eccola che arriva. Suoni, atmosfere molto molto drum and bass, dance, elettro. Il titolo è Saturn in Twilight. Lui è Dark Light, che apre ufficialmente il Mangia Show sulle magiche frequenze di Radio Oltrepò, come dicevano una volta. Spazio alla bella musica, spazio alla musica di Dark Light. Thank you. primo disco sempre molto intrigante era Dark Light con Saturn in Twilight. Questo brano, come anche il suo CD, lo trovate liberamente scaricabile sul sito yamendo.com, basta cercare l'artista Dark Light. Andate quindi su yamendo.com, cercate Dark Light e troverete due sue produzioni molto interessanti. Questa canzone è estratta per l'appunto dal secondo suo album. Scusate, ma mi ero chiuso il microfono. Ora andiamo avanti con una canzone del produttore finlandese Doc dal titolo Piece of Music. Questo brano viene campionata la voce del leader del partito pirata svedese, che per l'appunto si schiera dalla parte della libera circolazione delle opere musicali. Grande Doc. Piece of Music su Radio Oltrepò. That means that every piece of private communication must be monitored by law enforcement and by corporate interest groups in order to make sure I don't send their piece of music in private communication. They're also attacking not only the postal secret but something called the common carrier principle, which means that the messenger is never responsible for the contents of a message. So, Lady Justice has a problem. On one side of the scale is one income source for one entertainment industry, essentially a luxury consumption. On the other side of the scale are two foundations for our democratic society. Piece of music. Never bought a piece of music in my life. Piece of music. I say music file sharing is the American. And the American public, as the Boston Strangler is to the woman home alone. Piece of music. Intellectual property is, what the fuck is that? I've never bought a piece of music in my life. Piece of music. If it's a crime, why is it on me? Of music. We don't think it's legal because it's like copying like without the copyright. We don't think it's legal because everyone's doing it. Piece of music. We recognize and we know that we will never stop piracy. Piece of music. The tides are out there. They have been down. They're down. There's no up anymore. They're all down. Piece of music. We have to try to make it as difficult and as tedious as possible. And we have to let people know there are consequences if they're caught. What the fuck is that? Piece of music. I've never bought a piece of music in my life. Piece of music.

eccoci tornati in onda su Radio Oltrepò. In precedenza abbiamo ascoltato Doc con Piece of Music ed ora invece Mamma con questa canzone molto molto interessante. Parliamo ora invece di una band italiana che diciamo così è famosissima sul web, ma anche attraverso insomma la sua musica molto molto diciamo così libera. Sto parlando dei Rain, che molti di voi conosceranno se siete degli utenti delle varie reti che pubblicano musica Creative Commons. Sicuramente vi sarete imbattuti in questa band. Per chi non li conosce, i Rain sono una band italiana romana. Pubblicarono il primo album dal titolo Un'altra estate nel 2005 e in questo periodo firmarono un contratto con un'etichetta indipendente romana. Dopo un anno decisero di cessare la collaborazione con questa etichetta indipendente per collaborare con la Free Hardware Foundation. Il gruppo pubblica l'LP Est con licenza Creative Commons non commerciale non derivata e l'autorizzazione per la diffusione del brano e dell'intero album Est. Quest'anno, nel 2010, è uscito il terzo album dei Rain, per l'esattezza era il 15 ottobre 2010, e viene pubblicato questo album che è intitolato È finita, sempre sotto licenza Creative Commons, e che potete trovare liberamente e legalmente scaricabile ed ascoltabile sulla piattaforma di yamendo.com. Però dei Rain vorrei farvi ascoltare una canzone antecedente, cioè dell'album del 1999, una canzone stupenda che si intitola semplicemente La canzone di Chiara. Buon ascolto, questa Radio Oltrepò in compagnia del Mangia. Arrivano i Rain, La canzone di Chiara. Un mattino di novembre e con un sacco di cotone sottile come la speranza, e vide la pianura della Puglia sotto un cielo di metallo, e in un attimo capì al volo che niente era cambiato. E le strade d'adesso sono come quelle di una volta, la strada è un po' come la vita, da qualche parte dovrà andare. E Chiara sente il vento nei capelli, vento d'Albania. E Chiara sente il vento alle sue spalle, le spalle a casa sua. E la gente non pensa, la gente non vuole, la gente non sente, non prova dolore. Non c'è pietà e non c'è amore, e pensa a mangiare e poi a dimagrire. Cadono gli aerei e le bombe sulla trappola globale, a salvaguardia di un sistema che fa schifo, fatto per il capitale. Chiara guarda il cielo di Milano, ma la trova ancora uguale. Lì è 15 ore di lavoro che l'aspettano, marciapiede dove stare. E la gente non pensa, e la gente non vuole, e la gente non sente, non prova dolore. Non c'è pietà e non c'è amore, pensa a mangiare e poi a dimagrire. Chiara gli occhi scuri nella notte, sa che deve andare. È forte del ricordo di un amore perso al di là del mare. Io mi chiedo quante chiare ci saranno che dovranno poi venire. E se davvero è tutto così ovvio, come fate a non capire? La gente non pensa, la gente non vuole, la gente non sente, non prova dolore. Non c'è pietà e non c'è amore, non pensa a mangiare e poi a Dio. Che ha disposto l'apertura di un'inchiesta, hanno riferito che l'imbarcazione si è trovata all'improvviso in una tempesta. È intervenuta la guardia costiera. Scusate, ci sono, mi sono soffermato nel bermi un bicchiere d'acqua, però siamo tornati in diretta su Radio Oltrepò, in precedenza Irene con la canzone di Chiara estratta dall'album Est del 1999, ora invece alla grande la musica finlandese di Kamerer, questo brano intitolato Devil's Deep Inside. Siete su Radio Oltrepò con Andrea e con il grande suono di Kamerer. Buon ascolto. Ascoltando la grande lounge music di Radio Oltrepò. Thank you. Stai ascoltando Radio Oltre Po. Que siento por ti, decir que nos queremos y que nunca nos olvidaremos. Es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo y se acurruca en mi corazón para decirte, mi amor, que cada día que pasa me enamoro más de tu mirada y me gusta lo que siento en mí cuando estoy junto a ti. Y también gusta lo que siento en mí cuando estoy junto a ti. Es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo y se acurruca. Más de tu mirada y me gusta lo que siento en mí cuando estoy junto a ti. Tú e mí, Marle Cani, non so bene se la pronuncia sia esatta. Siamo tornati in onda un po' più romantici del solito dopo tanta musica, diciamo così, molto molto dance. Questa è sempre Radio Oltrepò, siete in compagnia di Andrea per quanto concerne la trasmissione Mangia Show, o del Mangia, fate voi, insomma, Mangia è il mio soprannome, potete chiamarmi Andrea oppure Mangia. Giunti a questo punto vi ricordo tutti i nostri vari contatti, se avete qualcosa da comunicare alla radio lo potete fare tramite mail, il nostro indirizzo è il seguente: radiooltrepo@live.it, radiooltrepo@live.it, live non live, scusate. Poi abbiamo anche un sito internet dove potete consultare le pagine, non so, magari scaricarvi il podcast di questo programma oppure leggere la storia della radio, ascoltarci in streaming, eccetera eccetera eccetera. L'indirizzo web è www.radiooltrepo.com. Comunque, se cercate su Google ci trovate. Non sul motore di ricerca di Microsoft, perché ho notato che se digitate Radio Oltrepo non compare la nostra radio, boh, non so perché. A mio avviso Google rimane sempre molto professionale e attendibile per le vostre ricerche. Come in Cina, che diciamo così censurano Google, il motore di ricerca di Microsoft censura la nostra radio, non lo so. Magari devono aggiornare un po' i dati, insomma, il computer cosiddetto di Bing, mi sembra che si chiami, il motore di ricerca di Microsoft, deve ancora leggere bene, insomma, le nostre parole chiave, forse non c'è ancora indicizzato. Vabbè, un discorso un po' contorto tra me e me, diciamo così. Magari chi è che utilizza Front Page mi ha capito. Andiamo avanti con la musica. Se in precedenza eravamo molto molto romantici, ora diventiamo molto molto rocchettari. Prima di ascoltarci la prossima canzone intitolata Linus and Lucy, vi ricordo che la musica trasmessa dalla radio è musica Creative Commons, quindi non ha nulla a che fare con la SIAE, per questo non esponiamo il logo della SIAE e dell'altra società che tutela i diritti d'autore, perché noi non trasmettiamo canzoni protette dai diritti d'autore. Penso sia chiara la cosa. Lo ribadivo soprattutto per gli amici e per le amiche della SIAE. Andiamo avanti con il prossimo brano, molto molto rock, bellissimo. Qua se alzate le casse ora che vi si rompono. Linus and Lucy, lui è Jelly, non so se la pronuncia sia corretta, però il brano è, direi, molto molto potente. Ascoltate qua. e Lucy a cantare era Jelly. Tra le altre cose, questa canzone è contenuta in un album che trovate su yamendo.com, molto molto bizzarro direi. Ci sono canzoni di Natale rivisitate in chiave rock. Ora però c'è un brano che mi fa impazzire, il titolo è Make Me Believe e loro sono i Felixst. Stupenda veramente, qua si torna diciamo così alla musica dance dei primi del 2000, fatta di belle belle sonorità. Make Me Believe, questa è Radio Oltrepò Pavese. Canzone stupenda che ha in sé una profonda nostalgia, almeno per quanto concerne il sottoscritto. Quando ascolto questo brano mi torna alla mente la fine del 1999, il 2000, quando uscivano canzoni dance molto molto pregevoli che prendevano spunto dalla musica disco degli anni 70, e questo brano Make Me Believe mi ha fatto veramente tornare indietro nel tempo e ricordare magari i brani di Alcazar, Great Disco Texas, se lo ricordate, che prendeva spunto da un vecchio brano degli Chic, eccetera eccetera. Insomma, canzoni stupende che hanno fatto la storia della musica dance del passato, e non solo della musica dance, potrei definirlo l'ultimo periodo glorioso delle discoteche, insomma, quando c'era tutto esaurito si andava a ballare ancora con il sorriso sulle labbra. Un ragionamento che fanno spesso tutti, no? Quando senti i vecchi, magari che hanno 60-70 anni, dicevano insomma che nei loro tempi si stava meglio di oggi. Forse è pura e sola grande nostalgia, celeste nostalgia, come diceva il mitico Cocciante. Ora c'è il telefono che squilla, il mitico telefono SIP degli anni 80. Chi di voi se lo ricorda? I 40 anni all'ascolto sicuramente sì, magari per i giovanissimi sarà stata una gradita sorpresa, quantomeno riascoltare il suono del glorioso telefono SIP. Facciamo una cosa, dai, lo rimettiamo un attimo la basettina del vecchio mitico telefono SIP. Eccolo che arriva, sentite, eh? Penso che così possa bastare. Purtroppo siamo giunti al termine anche per quest'oggi. Spero abbiate gradito il Mangia Show. Non disperate, ritorneremo settimana prossima con un'ennesima puntata. Vi ricordo che questa trasmissione andrà in versione podcast, liberamente scaricabile dal sito della radio www.radiooltrepo.com oppure direttamente nel mio blog andreamangiarotti.com. Potrete riascoltare la puntata o se vi dovesse piacere la potete anche scaricare per ascoltarla magari nel vostro cellulare, nel vostro iPod, nel vostro computer, masterizzarlo magari su CD, fate insomma quello che volete di questa trasmissione. Vi ricordo in finale i contatti della radio, finale sta male, forse meglio dire in conclusione del programma. I contatti sono i seguenti: tramite internet www.radiooltrepo.com, l'ho ricordato più volte, penso che ve lo sarete appuntato. Poi siamo presenti anche su Facebook, basta cercare Radio Oltrepo Pavese, ci trovate, ci potete aggiungere come amici oppure potete iscrivervi al nostro fans club. Siamo presenti anche su Twitter. E insomma, mi sembra di aver detto tutto, siamo arrivati in fondo. Grazie ancora per l'attenzione, un abbraccio a tutti da parte del Mangia e vi lascio con le note stupende della nostra canzone che conclude la trasmissione. Sognate un attimo con queste note dolcissime proposte da Radio Oltrepo. Buon proseguimento a tutti con i programmi della radio. Ciao ciao, un abbraccio da parte del Mangia. Ciao, grazie per l'ascolto e per l'attenzione. Ciao ciao ciao. Questa è Radio Oltrepo. A Broni e Stradella la puoi ascoltare in FM sulla frequenza www.radiooltrepo.com, megahertz in stereofonia. Radio Oltrepo, enjoy the sound.